Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buon salvadanaio e buon caldo a tutti da Deborah Rosciani. Ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con la finanza, con il nostro denaro, i nostri investimenti, i nostri impegni finanziari. Allora, niente ferie per gli investitori in obbligazioni. La settimana che si chiude oggi è stata sicuramente molto vivace, non solo per il mercato azionario che ha messo sotto i riflettori le prime trimestrali americane di peso. Ieri sono stati diffusi i dati di JP Morgan e poi nel settore tecnologico da AMD, il numero due mondiale dei chip, Google. Poi vi racconterò queste cose anche quando vi aggiornerò fra qualche minuto sulla borsa. È stata una settimana vivace soprattutto sul mercato dei titoli di Stato per diverse ragioni. Intanto perché la Grecia è tornata sul mercato dei capitali con una corposa asta che aveva inevitabilmente un esito incerto, visto che è stata la prima dopo il maxi piano di salvataggio concordato a maggio da Unione Europea e Fondo Monetario. L'accoglienza invece da parte del mercato è stata incredibilmente positiva per questi titoli, delle scadenze molto brevi in ogni caso, titoli che sono stati in larga parte assorbiti dal sistema bancario locale. E accoglienza positiva come è stata anche quella riservata all'emissione di ieri della Spagna di titoli di Stato a 15 anni. Insomma, i governi, e lo sappiamo bene, hanno bisogno di rifinanziare il debito. Gli importi delle aste sono piuttosto importanti, ma a quanto pare il mercato, rispetto a questa crisi che si immaginava e si preannunciava qualche mese fa, il mercato appunto sta normalizzandosi. Poi questa settimana c'è stata anche un'altra notizia che ha destato una certa curiosità fra i risparmiatori: il lancio da parte della più grande banca italiana, di Unicredit, di un bond perpetuo, di un'obbligazione perpetua. E allora, insomma, tutto questo ci ha portato a considerare che c'è indubbiamente fermento nel settore obbligazionario, visto che il titolo di Stato piace molto alle famiglie italiane che comunque acquistano prevalentemente titoli del nostro debito, quindi del debito pubblico domestico, un po' meno quello degli altri paesi. Oggi ci è sembrato utile fare un punto della situazione, per cui abbiamo interpellato due esperti, uno che ci aiuterà a fare un quadro di mercato. Lo saluto subito, Luca Bagato, trader specialista sui mercati obbligazionari, consulente in questo settore, consigliere di MTS Borsa Italiana, che è il segmento dove si compravendono appunto titoli di Stato e titoli obbligazionari, e consigliere di Sopaf SGR. Bagato, spero di aver detto tutto, ma poi fa anche tante altre cose. Buongiorno e bentornato da noi. Buongiorno e buongiorno a tutti. E poi saluto, perché per la prima volta ospite di Salvadanaio, sarà un po' il nostro insegnante questa mattina, che ci aiuterà a, così se avete delle domande anche in questo senso, a capire la differenza fra uno strumento obbligazionario piuttosto che un altro, che differenza c'è fra un titolo di Stato e un'obbligazione societaria, che cos'è un buono fruttifero rispetto ad un BTP. Allora, buongiorno e grazie di essere con noi a Nicola Zanella, che è un ricercatore e animatore e fondatore del sito Bond Reali, il primo sito di informazione finanziaria dedicato alle obbligazioni indicizzate all'inflazione. Zanella, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Tra l'altro, bond reali perché? Perché si riferisce alle obbligazioni degli stati sovrani o si riferisce al rendimento reale dei titoli obbligazionari? Zanella, perché ha scelto questo nome da dare al suo sito? È un nome utilizzato comunemente per indicare le obbligazioni indicizzate all'inflazione. Ah, ecco, cioè, quindi si chiamano proprio così. Esatto, sì, è un nome utilizzato soprattutto in Inghilterra, in non America. Si finisce mai di imparare davvero, questo non lo sapevo. Tra l'altro, Nicola Zanella, mi piace ricordare che sta per pubblicare per Giunti Editori il libro Investire bene i propri risparmi, che naturalmente gli faremo presentare non appena sarà pronto, e ha collaborato anche a lungo con Marco Liera, che tra l'altro vorrei salutare da questi microfoni perché ha da poche settimane lasciato l'incarico di caporedattore di Plus 24 del Sole 24 Ore per un'altra avventura professionale, ma ha scritto, Marco Liera, lo abbiamo presentato anche a Soldi e Dintorni, il libro Capire la Borsa, e ha scritto molta parte di questo testo anche con la collaborazione di Nicola Zanella. Per cui tutti i segreti delle obbligazioni questa mattina a Salvadanaio, chiamateci all'800240024 per le vostre domande in diretta, oppure scrivetecele se vorrete al 349-238-6666. E la borsa stamattina appare incerta perché era partita bene, poi ha azzerato i suoi guadagni, adesso invece li riprende e il mercato ovviamente mantiene sotto i riflettori, come dicevamo prima, le trimestrali che sono in corso di divulgazione dagli Stati Uniti. Ce ne sono state alcune importanti. Ieri è cominciato il settore bancario con JP Morgan, che ha fatto molto bene, e il mercato americano però non ne ha risentito più di tanto, perché ne ha risentito in termini positivi perché è andata male per tutto il giorno, poi sul finale gli indici statunitensi hanno agganciato la parità. E stamattina l'Europa ci ragiona un po' meglio su questi colossi societari che stanno mettendo i loro verdetti trimestrali. Parigi sale dello 0,4%, Francoforte più 0,4%, Londra più 0,83%, stamattina la City va meglio, mentre come al solito Milano rimane un po' indietro e sta guadagnando lo 0,30%. Oggi titoli bancari in ordine sparso: a Milano Monte dei Paschi guida i titoli con il segno più 1,73%, Pirelli più 1,67%, Ansaldo più 1,31%, Unicredit più 1,23%, Parmalat più 1,2%, Saipem, Fiat e Bulgari in rialzo di un punto. I segni meno invece sono concentrati sull'automatica, che dopo aver guadagnato molto ieri oggi si ferma, si prende una pausa, perde l'1,85%, Azimut meno 1,75%, Telecom in ribasso di un punto e mezzo, e quasi un punto di ribasso lo segnano Italcementi e Autogrill. Le trimestrali in rassegna oggi dagli Stati Uniti. Ieri, oltre a JP Morgan, hanno comunicato i dati il secondo produttore mondiale di chip dopo Intel, che è AMD. È andata bene anche per questo gruppo. Google, che ha visto gli utili crescere del 24%. Oggi abbiamo Bank of America, Citigroup e Mattel. Petrolio a $76. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Parliamo ancora di mercato, ma di quello obbligazionario. Una sorta di stress test per saggiare la fiducia dei mercati verso la sostenibilità del debito di molti paesi. La settimana che si conclude oggi è stata infatti caratterizzata da una serie di aste di titoli di Stato che hanno coinvolto i principali paesi europei, compresi quelli considerati più a rischio. Grecia, Spagna, Portogallo hanno portato a termine i rispettivi collocamenti con richieste da parte del mercato superiori alle quantità offerte, e il successo di queste emissioni ha fatto in parte tirare un sospiro di sollievo. Un'ulteriore testimonianza del fatto che, nonostante i recenti timori, gli investitori continuino a ritenere le obbligazioni, sia statali che societarie, un buon investimento. Tanto che, secondo l'agenzia Standard & Poor's, da qui a tutto il 2013 ci sono in scadenza 2.500 miliardi di euro in bond emessi da grandi società del vecchio continente. Un trend che in Italia riguarda in particolare i bond bancari, molto apprezzati dal pubblico retail. Nel 2009 le banche italiane hanno infatti emesso 184 miliardi di euro di obbligazioni, in linea con il 2008. Ma a fronte di un ammontare invariato, sono cambiati gli acquirenti. Gli investitori istituzionali hanno comprato 10 miliardi di bond in meno rispetto al 2008, meno 19%, mentre i piccoli risparmiatori hanno aumentato del 10% gli acquisti, saliti a 140 miliardi di euro. 800 24 0024, torno a ricordarvi il numero verde per le vostre domande, per intervenire a Salvadanaio e fare le vostre domande ai nostri ospiti di questa mattina, due esperti del settore, Luca Bagato e Nicola Zanella, oppure scriveteci al 349 238 666. Un primo commento sulle aste di questa settimana: Bagato, sotto i riflettori e nel mirino degli investitori ovviamente sono finite le economie che ci hanno fatto un po' più tremare i polsi negli ultimi mesi, la Grecia in primo luogo, che è ritornata sul mercato dei capitali dopo aver interrotto le emissioni in aprile, aspettava il piano di salvataggio, e l'asta del 13 luglio è stata condotta si è conclusa con successo. Poi abbiamo avuto la Spagna, abbiamo avuto il taglio del rating sul debito del Portogallo, ma il Portogallo in ogni caso è riuscito a collocare sul mercato oltre 1,5 miliardi di euro in obbligazioni a 2 e 10 anni. Un mercato più sereno, questo è un buon presagio per tutta l'estate, oppure c'è ancora qualche fattore di rischio che fa capolino? Bagato. Allora, qualche fattore di rischio rimane. Tenete presente che siamo sempre in una situazione in cui, a guardare i differenziali, ad esempio 10 anni, che fanno da riferimento per quanto riguarda il rischio dei paesi sovrani, abbiamo ancora differenziali rispetto alla Germania ampiamente al di sopra della media mobile a 100 giorni, in particolar modo per la Grecia. Italia è circa 30 punti base sopra la media mobile e il Portogallo circa 80, la Spagna è un po' una via di mezzo. Quindi i rischi rimangono. Sicuramente il mercato sta prendendo un po' di coscienza sul fatto che la gestione del debito pubblico, per quanto riguarda le grosse emissioni e questo tipo di rendimenti, potrebbe non essere un grosso problema. Non va dimenticato che parliamo ad esempio di rendimenti a 2 anni, in questo momento per la Grecia al 9,60%, quindi siamo parlando di rendimenti che ci ricordano, se tornassimo solo indietro di un paio di anni, rendimenti simili ad esempio di paesi emergenti, insomma, la Venezuela di 2 anni fa, per darci un'idea. Quindi sicuramente il mercato prezza ancora un rischio piuttosto elevato, come spesso succede, lo prezza di più nel breve che nel lungo termine. Quindi questo crea una classica inversione di curva delle aspettative, cioè come succede anche per i mercati emergenti, l'aspettativa di un dissesto finanziario colpisce più facilmente i rendimenti tra 0 e 2 anni, che sono rendimenti molto lungo. Questo permette chiaramente ai governi, una volta che raggiungono una riorganizzazione del debito e una credibilità internazionale migliore, di poter più facilmente collocare questo idea di rendimento il debito breve, perché chiaramente ingloba ancora un rischio molto elevato. No, la cosa paradossale è che fino ad un paio di anni fa, ma anche fino all'anno scorso, proprio per dare qualche suggerimento di investimento ai piccoli risparmiatori che volessero ancora puntare, perché magari non si fidavano della borsa, sul mercato obbligazionario, perché appunto affezionati proprio a questo segmento di investimento, come parcheggio della liquidità si continuava a suggerire proprio obbligazioni a brevissima scadenza, a brevissimo termine. Oggi appunto scopriamo invece che la crisi ha reso i titoli a brevissima scadenza naturalmente più a rischio. Questo non vale ovunque, perché invece bagato, continuiamo a ricordare che in Italia le brevissime scadenze hanno i rendimenti rasoterra praticamente. Assolutamente, no, infatti questa è una cosa interessante, cioè quando infatti si parla di rischio paese, in realtà io dico che la parte, diciamo, il valore di segnaletico sicuramente è il 10 anni, però la parte espressiva di una difficoltà di gestione del debito pubblico la si vede proprio sul 2 anni. Sicuramente Portogallo e Grecia sono molto più in difficoltà, anche con la Spagna, rispetto all'Italia, e qua noi chiaramente siamo in qualche modo un po' premiati, non solo dalla gestione più accurata probabilmente dei numeri, quindi da un governo comunque più credibile a livello europeo, ma sicuramente anche dal fatto che l'Italia gestisce il debito pubblico da più anni in condizioni di alta volatilità. Ricordo solo la situazione del 94, quella del 98 addirittura, con il fallimento del TCM e della Russia, che aveva comportato grossi innalzamenti differenziali, e quindi siamo visti al mercato in una situazione migliore, ecco, se vogliamo, come punto di partenza della gestione del debito. 800 24 00 24, ricordo ancora il numero per prenotare i vostri interventi. Sono già in linea 2 ascoltatori, ma prima volevo scambiare 2 chiacchiere con il nostro altro ospite, che è Nicola Zanella, come vi dicevo il massimo esperto italiano, così almeno me lo hanno presentato qualche mese fa, dei bond reali, che come ci definiva molto bene prima quando gliel'ho chiesto, sono le obbligazioni indicizzate all'inflazione. Zanella, l'inflazione adesso non ci desta particolari preoccupazioni, anche se questo non è sempre un buon segnale, perché comunque quando anche lì l'indice dei prezzi al consumo comincia a rialzare la testa, dietro a questa tendenza si nasconde anche, si cela una ripresa dell'economia. Non siamo ancora nelle condizioni di poter parlare di questo. Questa situazione dell'inflazione rende appetibile adesso l'investimento in un'obbligazione di questo tipo? Come funziona un bond indicizzato all'inflazione? Allora, le obbligazioni indicizzate all'inflazione sono molto importanti per i risparmiatori italiani, proprio perché hanno un interesse reale fisso, per quello il mio sito si chiama bondreali.it, che viene distribuito periodicamente in Italia ogni sei mesi, e hanno un valore nominale che si aggiusta nel corso del tempo proprio per l'inflazione. Perché questo? Perché permette una copertura totale da quella che viene chiamata inflazione in attesa, proprio quella che in periodi, come diceva lei prima, l'inflazione è bassa e comunque non desta preoccupazioni, in realtà poi in futuro questa inflazione potrebbe rialzarsi e non essere attesa dal mercato. Quindi questi bond, a differenza delle obbligazioni tradizionali come i BTP italiani, in cui è prestata solo l'inflazione attesa dagli operatori del mercato, quindi in questo momento eventualmente bassa, garantisce una protezione anche dall'inflazione in attesa, che è quella proprio che crea molti problemi a coloro che prestano denaro a tasso fisso nominale, quindi tasso reale più inflazione. Quindi in questo senso i bond reali sono molto importanti, perché nel corso dei decenni si è visto che soprattutto le obbligazioni a breve termine, facciamo esempio i bot italiani, chi ha investito in bot italiani ogni anno riacquistando queste obbligazioni non è riuscito a proteggere il proprio capitale dall'aumento dell'inflazione, che era ovviamente in attesa. Esatto, soprattutto ricordiamo quella che aveva raggiunto quel picco di oltre il 4% nell'estate del 2008, quando la crisi finanziaria appunto era al suo culmine, quindi quella era veramente una fase in attesa. Quindi chi avesse avuto in portafoglio uno strumento di questo tipo quantomeno avrebbe avuto la protezione del capitale in questo senso. Esatto, stiamo parlando anche comunque di inflazioni eventualmente anche più elevate, tipo anni 70, quindi con la crisi petrolifera, 10%. È chiaro che queste obbligazioni permettono di proteggere nel migliore dei modi una parte importante del proprio capitale che appunto non si vuole mettere a rischio. Zanella, ogni Stato ne emette per conto proprio? Anche, certo, sì. Benissimo. E allora, questa settimana il mercato obbligazionario è stato animato dalle aste che erano molto attese da parte della Grecia, che ha collocato sul mercato titoli a brevissima scadenza, e poi c'è stata una maxi asta della Spagna, un'altra asta molto importante del Portogallo, certo magari paesi dei quali non ci interessa molto perché noi siamo soprattutto acquirenti e sottoscrittori del titolo del nostro, di titoli del nostro debito, e però insomma anche per fare un quadro di mercato che sembra orientato alla normalizzazione, ci piaceva anche raccontare un po' cosa succede sul versante internazionale. Queste sono state economie che ci hanno preoccupato non poco negli ultimi mesi, non è che la situazione sia molto migliore, però il fatto che riescono a collocare il proprio debito con serenità adesso quantomeno ci rassicura parzialmente. Stamattina allora, prendendo a spunto le aste di questi paesi, abbiamo pensato di rifare un po' il punto sull'andamento del mercato obbligazionario, visto che è uno strumento di investimento che agli italiani piace molto, anche per capire un po' qual è la dinamica dell'investimento, come si fa a puntare su questi strumenti, quali sono anche le scadenze o i titoli più gettonati fra i risparmiatori. Luca Bagato e Nicola Zanella stamattina con noi, due esperti di questo settore, e le vostre domande all'800 24 00 24. Sentiamo subito qualche domanda per poi tornare, anzi prima volevo rispondere ad una che arriva al 349 238 6666, perché un ascoltatore scrive: non è che perché la sottoscrizione di bond bancari è aumentata nel pubblico retail e diminuita per gli istituzionali, non è che le banche vogliono trasferire i rischi sui risparmiatori? Questa è stata una denuncia molto precisa, l'osservazione pertinente, che ha fatto anche il presidente uscente della Consob Cardia nella sua relazione annuale a fine giugno. Noi a quel tema avevamo anche dedicato un'apposita trasmissione, e diciamo che sì, il tema è centrato, ascoltatore che non si firma, il tema è che le banche ultimamente, per fare raccolta, visto che si è congelato a lungo il mercato interbancario, le banche non si sono prestate a lungo denaro tra di loro, e quindi per fare raccolta hanno dovuto, non dico inventarsi perché poi le obbligazioni sono state sempre emesse, ma comunque incrementare la diffusione di questi strumenti fra i risparmiatori, quindi si è capovolta la dinamica della distribuzione di questi prodotti sul mercato. Effettivamente gli istituzionali apparentemente stanno un po' lontani dal rischio che si è trasferito effettivamente sul pubblico retail. Bagato, voleva aggiungere qualcos'altro su questo? Mi sembra una riflessione interessante. Ho partecivato peraltro direttamente alla trasmissione. Alla Consob, infatti mi pareva di averle invitato. Consob che trasmissione, quindi devo dire è stata una giusta osservazione, ma innanzitutto è sempre vero libero arbitrio, quindi penso che gli investitori dopo tutte le crisi recenti sappiano anche scegliere lo strumento che più si adatta al proprio rischio di portafoglio. È anche vero però che al di là degli allarmi istituzionali, in Italia in particolar modo il rischio delle banche è percepito un po' diversamente, forse come i media continuano a trasmettercelo, cioè è percepito in maniera molto bassa. Sì, non, sì, però non diciamo che se ha ragion veduta, io mi auguro di sì, chiaramente nel tempo, ma le banche sono viste comunque come una buona alternativa rispetto al governo, cioè in realtà il rischio paese e il rischio, diciamo, singola banca in qualche modo viene un po' mischiato, lontani i periodi chiaramente del rischio di alcune banche vissute nel 2008, però in generale gli investitori tendono a scambiare ormai bot con obbligazioni bancarie. Diciamo, non penso che sia un errore, penso che però vada ridimensionata la percentuale di portafoglio da dedicare a questo tipo di prodotti. Quando si aumenta il rischio, la percentuale di portafoglio deve essere chiaramente confacente alla sopportazione di questo rischio. Allora, andiamo adesso alle domande per colui che ho definito stamattina il nostro professore, Nicola Zanella. C'è un quesito di Daniele da Napoli che inaugura le nostre chiamate di stamattina. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Senta, volevo sapere il motivo per il quale le obbligazioni, faccio un esempio, quelle del titolo di Stato, un BTP, un BOT, vengono quotati su più mercati, mi riferisco al MOT e l'Euro TLX, e il motivo per il quale alcuni istituti fanno switchare dall'uno all'altro mercato, mentre altri istituti no. Allora, Daniele, adesso io non so neanche se Zanella, che comunque è più preparato proprio sulla dinamica del prodotto, voglia intervenire su questo. In ogni caso, il tema è sì che c'è il mercato della borsa italiana e poi ci sono altri circuiti, come dire, che possiamo definire privati in qualche maniera, ma lo è anche quello della borsa. Zanella, voleva fare qualche osservazione su questo, poi magari se no vada bagato, sì. Sì, i titoli di Stato sì, si possono trattare sia al MOT che all'EuroTLX, che è un sistema di multilaterale di negoziazione dell'Unicredit. Ora non so l'istituto in cui si faceva riferimento il nostro ascoltatore. Certo, ogni tanto ci sono differenze di prezzo tra il MOT e l'EuroTLX. Dopo, sinceramente, non conosco proprio la banca, nemmeno del nostro ascoltatore, quindi non saprei dire come mai non viene permessa questa operazione. Sentiamo Bagato se ha qualcosa da dirci su questo. No, tenete conto che io chiaramente rappresento anche sempre la borsa italiana, quindi sono anche, diciamo, un po' in conflitto di interessi stamattina. Sì. No, allora devo dire, deve valere, visto che ce lo introduce anche la MiFID in maniera molto chiara, la BEX execution come, diciamo, principio base, quindi deve esserci libertà di pricing di tutti i titoli, ma anche libertà d'accesso dei clienti alle piattaforme, quindi va bene che ci siano piattaforme alternative rispetto a quella, diciamo, ufficiale, se vogliamo, tra virgolette, che è quella di Borsa Italiana con il MOT, ma chiaramente la banca deve darmi la possibilità di accedere alla piattaforma MOT, così con quella TLX, e in quel caso sono io che scelgo la piattaforma del prezzo migliore. Bagato, abbiamo concluso sulla negoziazione di strumenti obbligazionari anche su circuiti alternativi a quello di Borsa? Sì. Benissimo. Allora, torno ai bond indicizzati, all'inflazione, con la domanda di Gianfranco da Roma, che saluto. Gianfranco. Sì. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ci dica. Allora, la mia domanda era per Zanella e volevo sapere qual è un eventuale rialzo dei tassi, in che misura può incidere sull'andamento nominale, chiaramente sulla quotazione dei bond reali, visto che sostanzialmente hanno comunque durate medio-lunghe, insomma. Certo. E poi così, una VIV sulle obbligazioni convertibili. Che cosa ne pensano gli esperti, insomma. Grazie Gianfranco, grazie mille. Allora, intanto Zanella, ha sentito una domanda assolutamente per lei, che sa tutto su questi strumenti. Che tipo di scadenze possono avere i bond reali? I bond reali hanno diverse scadenze. In realtà, se noi stiamo nella zona dell'euro, abbiamo 5, 10, 15, 20 anni, quindi addirittura si arriva al 2041 se andiamo a prendere i titoli di Stato francesi. Quindi per un risparmiatore italiano veramente cominciano ad essersi delle ottime possibilità di diversificazione, stando ovviamente dentro alla zona dell'euro. La nostra fortuna appunto è quella di avere l'euro e quindi possiamo acquistare tranquillamente o ATEI francesi, quindi titoli di Stato indicizzati all'inflazione europea, o OATI, cioè titoli di Stato indicizzati all'inflazione francese, e anche eventualmente i titoli di Stato tedeschi indicizzati sempre all'inflazione europea. Quindi abbiamo i nostri BTP indicizzati all'inflazione europea, quelli francesi e quelli tedeschi, che è già una buona diversificazione, dice lei. Esatto. Tornando alla domanda del nostro ascoltatore, bisogna ricordare che i bond reali, è vero, quindi essendo sempre titoli a tasso fisso, evidentemente per la famosa relazione inversa tra prezzo e rendimento, a un aumento dei tassi inevitabilmente il prezzo dovrà scendere. È vero però che appunto i bond reali hanno questa caratteristica, cioè il loro prezzo dovrebbe dipendere meno rispetto ai titoli tradizionali appunto dalla componente dell'inflazione. Quindi bisogna valutare cioè una sorta di ammortizzatore, chiamiamolo così, dell'effetto di rialzo dei tassi. Esatto, specificare se si tratta di tasso di interesse reale che aumenta o di tasso di interesse nominale, quindi di inflazione, perché poi in realtà i bond reali hanno delle limitazioni, quindi non coprono sempre tutta l'inflazione, a causa anche della tassazione che il nostro Stato, come altri ovviamente, richiede. Quindi non c'è una perfetta copertura dell'inflazione. Quindi bisogna vedere, ecco, la scadenza del titolo a cui il nostro ascoltatore si riferiva, perché ovviamente è maggiore la durata e quindi maggiore sarà la volatilità. E poi prendere un po' caso per caso, insomma, perché ci sono evidentemente, il mercato per i bond reali è ancora meno liquido rispetto al mercato dei titoli tradizionali. Ecco, questa è un'indicazione per esempio importante, perché proprio a maggior ragione magari non investire una parte rilevante del proprio patrimonio in uno strumento che si fa un pochino più fatica a smontare, a smobilizzare. non è d'accordo. Esatto, diciamo che c'è comunque un'alta comunque liquidità. Il problema, ecco, che in periodi di crisi, se vi ricordate a fine 2008, i titoli di Stato reali sono stati proprio venduti a man bassa dai risparmiatori che hanno cercato quel cosiddetto flight to quality verso i titoli tradizionali, quindi tipo i BTP, gli OATI, i titoli di Stato tedeschi nominali. E quindi nel 2008, se vi ricordate, l'inflazione attesa era scesa a livelli al di sotto dell'1%, cosa che in effetti poi si è verificata, ma solo in parte, insomma, quindi anche perché poi si trattava di obbligazioni di durata decennale, quindi in quel periodo l'inflazione era ancora molto ancorata a quell'obiettivo della BCE, che sappiamo essere vicino al 2%, ma leggermente minore. Quindi a volte possono esserci dei casi nel mercato dei titoli Stato reali di acquisti. Certo, bisogna valutare, ecco, che in quel periodo, il 2008, era proprio l'apice della grande crisi, quindi magari era apprezzato un rischio per la minore liquidità che certamente i titoli tradizionali più famosi, più conosciuti dai risparmiatori non hanno. Non hanno. Allora, 800 24 00 24, ritorniamo alle vostre domande, direi di farla fare a Stefano da Brescia. Paolo, se sei d'accordo, e poi sentiamo invece cosa succede sulle strade italiane. Stefano, benvenuto. Buongiorno. Ascolti, volevo chiedere ai suoi esperti. Il debito sovrano c'è più tranquillità, sono anche bene le altre, i paesi un pochettino più a rischio, e come mai allora i BTP, quelli decennali a scadenza 2021, sono calati anche in maniera abbastanza vistosa questa settimana? E le prospettive sulle BTP decennali o con scadenza più lunga? Grazie Stefano, molto chiaro. Luca Bagato, la domanda di Stefano da Brescia era per lei, naturalmente, e insomma lui dice: ho visto quello che è successo sulle aste dei titoli del tesoro spagnolo, di quello greco, vabbè, queste hanno delle situazioni abbastanza particolari, i rendimenti che questi paesi hanno dovuto riconoscere sono stati, ovviamente, per rendere più appetitosi questi titoli, sono dovuti essere un po' più alti, addirittura sono aumentati circa un punto percentuale rispetto alle ultime emissioni di aprile. Sui BTP italiani invece questa settimana cos'è successo? Allora, innanzitutto, come diciamo già prima, siamo in una situazione in cui alcuni, diciamo, dei rischi più estremi si sono andati in qualche modo un po' a calmierare. Ciò non toglie che la situazione rimane ancora una situazione di stress. Tanto per dire, sul discorso italiano, parliamo ancora di differenziale con la Germania intorno ai 145 punti base e abbiamo una media mobile da 100 giorni di 114. Abbiamo visto, diciamo, momenti peggiori, ad esempio sui 10 anni fino addirittura a 170, sì, punti base circa 2 mesi fa. Questo vuol dire un buon rientro rispetto al massimo, ma siamo ancora lontani da un rientro strutturale. Quindi ha ragione l'ascoltatore nel notare che comunque ci sono dei segnali di, diciamo, positivi, ma il quadro nel complesso non rimane decisamente positivo nel senso strutturale. Quindi l'Italia risente chiaramente ancora di alcuni movimenti di assestamento. Quello che è successo la settimana è che, non va dimenticato, noi abbiamo, nei momenti in cui si parla di rischio sovrano, alcune correlazioni che cominciano a muoversi nel mercato, cioè alcuni comparti che si assomigliano anche se magari trattati su mercati diversi. In particolar modo le obbligazioni italiane seguono rischio Italia segue da vicino il rischio anche azionario Italia, e rischio azionario Italia segue da vicino il rischio bancario. Quindi quello che sta succedendo per l'Italia è che quando va un po' sotto pressione il comparto bancario, come è successo negli ultimi giorni della settimana, con molta volatilità sull'azionario, ieri alcuni titoli di grosse banche italiane perdevano fino al 6% nel corso della giornata, questo colpisce chiaramente anche in particolar modo BTP. Quindi l'ascoltatore correttamente nota che siamo ancora in mezzo a un rischio. D'altronde il rischio vuol dire volatilità, vuol dire anche, diciamo, ricoperture rispetto a momenti estremi molto molto lenti. Un altro ascoltatore, prima non abbiamo completato la risposta ad un'altra parte di una domanda dell'ascoltatore precedente, che ci chiedeva che cosa ne pensate delle obbligazioni convertibili, di cui abbiamo raramente parlato a Salvadanaio, ma da quello che mi risulta, insomma, sono obbligazioni emesse dalla società che a scadenza possono essere convertite in azioni della medesima società. Bagato, giusto? È un mercato vivace in Italia. Ci sono tre componenti nelle obbligazioni convertibili tenute presente: sono in realtà un bond, quindi c'è una componente legata ai tassi, c'è però una componente anche legata, come diceva giustamente lei, alla conversione in azionario e quindi alla componente equity. In realtà siccome io non so a che livello poi questa conversione avverrà nel pratico, c'è cioè un'idea teorica di conversion ratio, quindi di movimento verso il valore teorico, sono in realtà, come si dice al mercato, un po' corto della volatilità di aggiustamento, cioè in realtà no, questa volatilità potrebbe colpirmi, quindi le obbligazioni convertibili vanno considerate come un rischio puro tassi più un rischio puro equity e oltretutto con rischio volatilità al contrario, quindi come nel marzo 2009, se arriviamo a una situazione in cui comunque l'azionario è ai minimi e la volatilità azionaria è ai massimi, io in realtà ho una grossa convenienza a comprare le obbligazioni convertibili, perché chiaramente beneficerò di questo rientro, in più se i tassi rimangono bassi ho anche a mio favore la componente obbligazionaria. In questo momento con la componente obbligazionaria che ha già dato grossi ritorni, con la componente azionaria che comunque rispetto a marzo 2009 è mediamente del 40% se non 50% più alta, con la volatilità un pochino più alta ma comunque diciamo nettamente più bassa rispetto a quella marzo 2009, su tre componenti non solo una che potrebbe in qualche modo farmi propendere per considerare le obbligazioni convertibili in questo momento molto interessanti. Quindi il mio ragionamento sul comparto al momento è un ragionamento selettivo, cioè bisogna stare molto attenti, selezionare esattamente il titolo e considerare delle opportunità alla stessa stregua poi di un posizionamento tra la bond. Sì, e Bagato, un'obbligazione convertibile la si può sottoscrivere solo in fase di emissione da parte dell'azienda interessata, c'è anche un mercato secondario anche per questo. C'è anche un mercato secondario, quindi quotato, per cui uno può seguire la quotazione, certamente non è liquido come un'obbligazione governativa. Certo. Torno a Nicola Zanella con la domanda di Enrico dalla provincia di Pesaro Urbino. Sì, buongiorno Enrico, sì. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere questa cosa qua riguardo le obbligazioni perpetue, tipo quelle che è stata un'emissione questi giorni di Unicredit. In particolare mi interessava sapere com'era possibile che emettano queste obbligazioni a titoli di oltre il 9% quando fanno ancora mutui fondiari al 3,5%, oppure capire in quali casi non pagano la cedola, perché ci sono dei casi in cui insomma ci sono queste obbligazioni che mancano il pagamento della distribuzione cedolare. Allora Enrico, andiamo ad addentrarci appunto nel mondo che non avevamo mai affrontato, anche in questo caso come l'obbligazione convertibile, raramente figuriamoci se abbiamo mai affrontato a Salvadanaio il tema dell'obbligazione perpetua, che non è la così cameriera di Don Abbondio, ma qua abbiamo un altro tipo di considerazione da fare. Allora Nicola Zanella, il nostro insegnante di questa mattina sulle obbligazioni, quando una società emette un'obbligazione perpetua, cioè che dura per sempre, già io stavo riflettendo che comunque abbiamo titoli di Stato che durano 30 anni e ci sembra una durata abbastanza perpetua, abbastanza lunga, e invece ci sono titoli praticamente a scadenza infinita addirittura. Sì, in realtà in passato le obbligazioni perpetue erano emesse veramente spesso dagli Stati, ora sono tornate in auge anche per quanto riguarda il settore privato, quindi banche, assicurazioni e società. Certo, le obbligazioni perpetue sono, intanto bisogna dire che sono forme di finanziamento in cui non c'è una scadenza, quindi questo è molto importante, cioè il debitore continua a pagare gli interessi periodicamente, però non c'è una data di scadenza, quindi l'unico modo che poi un sottoscrittore, diciamo colui che compra un'obbligazione perpetua, ha di liberarsene è quello di venderla sul mercato. Il problema appunto è che sappiamo che c'è questa relazione inversa tra prezzi e rendimenti, quindi è chiaro che può succedere di vendere in un momento di prezzi particolarmente bisogna intercettare il momento, il timing giusto, come si dice in gergo finanziario, esatto, anche per questi strumenti. Di solito appunto queste obbligazioni sono pensate per chi ha un lungo periodo o chi è attratto dalle cedole molto elevate, perché è vero, cioè il vantaggio, queste obbligazioni hanno dei chiari vantaggi per quanto riguarda l'emittente, sia fiscali che altri, perché sono una sorta di mix tra un'obbligazione e un sorta di capitale proprio, quindi hanno dei vantaggi per chi le emette. Per il risparmiatore certo hanno delle cedole, come diceva il nostro ascoltatore, molto elevate, che sembrano proprio pura fantasia oggi. È vero appunto che il rischio è quello di dover vendere poi questa obbligazione, perché di solito il risparmiatore avrà un orizzonte temporale finito, allora a quel punto lì bisognerà vedere a che prezzo poi dovrà vendere. Poi riagganciandosi a domanda del nostro ascoltatore, bisogna ricordare che a volte sono anche subordinate, quindi vuol dire che in caso per esempio di scioglimento della società gli obbligazionisti possono venire pagati dopo gli altri creditori, ecco, oppure la società può non pagare cedole e non risultare insolvente, cioè ci sono delle clausole che sono veramente particolari. Insomma, in generale io consiglierei ai nostri ascoltatori di dedicare una quota veramente bassa. Ragionevolissima, insomma, esatto, del proprio patrimonio su questi strumenti. Peraltro guardavo le caratteristiche di questa di Unicredit che è stata lanciata proprio pochissimi giorni fa. Il bond sarebbe un perpetuo, appunto, con l'opzione dell'emittente di ritiro a partire dal 2020. Quindi, diciamo, in certe circostanze l'emittente si riserva anche l'opzione di ritirarla dal mercato, mi viene da dire, prima del termine. Non esistendo un termine, ad un certo punto la banca, in questo caso Bagato, può anche decidere di ritirarla dal mercato. Ci rimane un minuto di tempo prima di salutarci. Lei sulle obbligazioni perpetue ha qualche riflessione aggiuntiva, Bagato? Ma innanzututto per rispondere alla domanda iniziale, perché vengono emesse? Le obbligazioni perpetue vengono emesse perché le banche hanno bisogno comunque, che per i parametri di Basilea, di migliorare chiaramente la capacità, diciamo, lo stato patrimoniale. Quindi emettono obbligazioni perpetue per creare in qualche modo un afflusso di capitale costante e più facilmente controllabile. Per quanto riguarda un investitore, può essere un'opportunità, effettivamente, quindi la percentuale di portafoglio da dedicare è molto importante. Il livello di collability, come ha detto giustamente lei, cioè il 2020 viene richiamata, fa da riferimento anche per il calcolo della durata media dell'obbligazione. Attenzione, perché più ci avviciniamo a quella data e più, se la situazione interna della banca non è stata risolta, quella data diventa un po' un momento di tensione. Quindi, invece che creare, come diceva giustamente Nicola prima, per un quanto riguarda un'emissione che va a scadenza, la data in cui comunque tutto tornerà a 100 e quindi bene o male il mio eventuale patema sull'obbligazione, nel caso ad esempio di un titolo greca, finisce, nel caso di un'obbligazione perpetua è l'inizio della mia sofferenza, quindi questo va tenuto sempre in considerazione. Quindi, insomma, possiamo anche essere attratti, attirati da questi strumenti, a patto che ne conosciamo bene la dinamica e soprattutto cerchiamo di capire bene anche quali condizioni pone l'emittente di gestione di questo strumento, perché possono essere anche relativamente perpetui. Grazie a Luca Bagato e Nicola Zanella per essere stati con noi. Vi suggerisco di andare a dare un'occhiata al sito Bond Reali, poi naturalmente li reinviteremo molto volentieri al più presto, perché sono molto chiari anche nella loro esposizione. Magari li reinviteremo in occasione della presentazione del libro di Nicola Zanella, Investire bene i propri risparmi. Bagato, arrivederci, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie anche a Nicola Zanella, presto. Grazie anche a Gaia Romani per avermi aiutato in redazione come sempre, Paolo Corleoni stamattina in assistenza tecnica, Salvador Danai. Naturalmente torna lunedì. Buon fine settimana a tutti.